Tu che mi sorridi verde luna, tu che già conosci la mia pena, sai che attendo chi mi sta lontana. Verde luna, ma l'attesa è vana. Tu che le sorridi, verde luna, dille che nel cuor non ho nessuna. Io l'amo più di prima, verde luna, forse allora tornerai.